Prima parte. Non mi ero mai chiesto a cosa fossi destinato, né cosa avrei fatto della mia vita. Ma una sensazione vaga e ineffabile mi attraversava ogni mattino al momento del risveglio. E poi basta. Quando tutto in Italia cominciò ad andare gravemente a rotoli, partecipai prima come spettatore e poi sempre più coinvolto. Prendemmo le strade per ultima cosa, al contrario di altri tempi in cui fare le marce era il primo impegno. Noi invece, prima, avemmo tante idee. Ci fu una lunga, lunghissima crisi globale. In tutto il mondo capitalistico fu messo in discussione il sistema, a partire dal denaro, naturalmente. Moltitudini si mossero virtualmente e la rete ne fu il naturale luogo d'espressione. Poi tutti si incontrarono nei parchi e nelle strade, sotto palazzi di potere e in piazze. Le persone divennero prima migliaia, poi milioni. Le voci trovarono una nota comune, una sincronia. Poche parole d'ordine, ma efficaci. Le molteplici lingue non furono un ostacolo. Era superata la Babele del linguaggio e vi fu la creazione di gruppi, organizzazioni, assemblee e poi sottogruppi e particelle. Ma importante fu la collettività. La parola a tutti. Un movimento immenso, mormorante, urlante, ma anche ridente. Pensante, creativo. Insomma, fu la rivoluzione. Quella cosa che sembrava impossibile, lontana. Che ricordi? La rivoluzione francese, russa, cinese. E noi? Mai nulla. Cosa si diceva? La rivoluzione in Italia? No, siamo un popolo di commedianti, non sarà mai. E invece sì, qui in Italia abbiamo fatto la rivoluzione. Non si dormì per molte notti e giorni trascorsero senza che nessuno avesse fame o sete, ma invece si era felici e ci si baciava e si faceva molto l'amore. Poi ci si metteva solo abiti colorati e si ascoltava musica a tutto volume, si danzava nelle strade, si scrivevano poesie sui muri, si aprivano i macelli per far uscire gli animali. Nelle ore più calde si correva nudi, oppure ci si sdraiava sull'erba. Furono organizzate delle immense pacifiche feste durante le quali ognuno poté esprimersi liberamente. Questa, naturalmente, fu la parte ludica, come dire, quella più divertente, in una nuova organizzazione sociale. Occorreva avere i nuovi membri del Parlamento, un presidente, deputati, senatori, ministri, portaborse, capi di gabinetto, consiglieri, segretari, partiti pro o contro, stemmi, bandiere, carte, timbri, nastri da tagliare, da indossare, e poi esercito, aviazione, marina, cavalleria, ancora bandiere, vigilanza. Insomma, una quantità mostruosa di cose da rivedere. Servizi segreti, logge e massoni da abolire, denaro da sistemare in modo diverso, finanziamenti da tagliare o invece dare, enti da sciogliere e altri da creare. E inoltre cosa fare di tutti quelli che non erano d'accordo con la rivoluzione? Galere da riempire o svuotare? Quanto tempo a disposizione? Quali le direttive da seguire? L'educazione. Chiesero gli insegnanti di ogni ordine e grado al nuovo provveditorato agli studi. Come dobbiamo raccontare la storia e cosa dobbiamo insegnare? Ci voleva un capo, uno vero. Non un dittatore, un despota. Un capo che fosse tale, ma anche accomodante, simpatico, estroso, ma soprattutto molto creativo. Non vi deve sembrare strano. Questo fu deciso perché nel nuovo Stato agli uomini fu tolto il diritto di voto. Avevano combinato troppi casini, troppo legati al potere. Bisognava avere una visione della realtà che fosse per la vita e finalmente, soprattutto, un capo artista. Quindi, una campagna elettorale, manifesti, comizi, discorsi, incontri e programmi. Ciò che occorre nell'organizzazione di un paese dopo una rivoluzione che ha cambiato tutto, ma proprio tutto, è un programma economico serio, affidato a chi di denaro se ne intende, ma escludendo banchieri, economisti, ragionieri, chi rimane? Questa era una tra le tante cose che occorrevano, ma a dire il vero nessuna fu affrontata nel modo razionale che ci si sarebbe aspettati. Solo lunghissime assemblee di giorni e giorni avevano finalmente focalizzato la questione. Tutto quello che era stato fatto in passato, in nome della ragione, della prevaricazione, dello sfruttamento e del profitto, aveva condotto alla rovina. Parola d'ordine, nuovi punti di vista. Quindi, per conseguenza logica, il potere fu preso dagli artisti. La creatività al potere, in modo totale, senza se e senza ma. Non era più il tempo delle mezze misure, di avere solo il Ministero della Cultura affidato a un musicista. Ogni cosa sarebbe stata organizzata e pensata in funzione estetica, emotiva, comunicante, ludica, artistica. Siamo degli animali in fondo fatti di carne. Cosa ci contraddistingue da un pappagallo o una cernia? La creazione e niente altro. Punto. La dittatura dell'arte fu un fatto e in tutto il mondo ne parlarono. In Italia l'unica dittatura possibile, artisti, è ora. Fatto primo. Per iscriversi all'anagrafe artistica i genitori dovevano inventare un nome per il piccolo e poi comporre una poesia di benvenuto. Se hai un figlio e non sai dedicargli almeno dei versi, come pensi di essere idoneo? Ma intanto cominciarono i comizi e fu un crescendo di teatro di strada, di mimi, clown, pittori sui muri e sugli asfalti e declamatori e musica. Chi era il più bravo? Non chi aveva più pubblico, no. Chi era più amato? Chi sapeva creare fiducia. In poco tempo la rosa dei prescelti si ridusse e alla fine restarono solo in due a concorrere per divenire il capo. Il capo dell'Italia. Sotto la dittatura dell'arte aveva la faccia di un delfino che sorride ed era un artista poliedrico e fu considerato dalle donne votanti come il più bello. Certo, questa cosa fu oggetto di profonde discussioni, la questione era opinabile, però, insomma, così fu deciso. Il prescelto si chiamò, e naturalmente sono io, Delfino Sorridente del Mare, il cui anagramma fu Del Sorre. Questo nome fu scelto e creato da un gruppo di bambini, al di sotto dei 5 anni, grandi esperti di anagrammi, e suonava anche un po' come Re del Sole, da non confondersi con Re Sole, e poi scritto al contrario era un'altra cosa, secondo cui il chiaro, preciso intento era che da ora tutte le cose si guardavano da un nuovo punto di vista. Anzi, non è proprio un anagramma, è una forma contratta, però anche questo non importa, importa il nome, Del Sorre. E questo nome fu scritto ovunque. Ora non mancava proprio nulla, anzi, mancava tutto. O forse no, ora c'era la cosa principale, la più importante di tutte, quella fondamentale che era stata ignorata. Quella qualità che porta tutti a cooperare per fare di ogni singolo individuo una persona migliore. Non migliore secondo delle linee o un pensiero comune, ma migliore per se stesso e quindi per tutti. Chi è che lo disse? Partecipazione. Parte seconda. I ministeri furono creati, ma si chiamarono Luogo Creativo Principale, cioè in sigla LCP. Che forse prima era un gas, ma questo gas era destinato a non essere più usato perché fu accolto il progetto di uno scultore inventore che ideò, anzi che ha ideato, il cappello nuvola raccogli sole, che si indossa e crea energia anche camminando o mangiando o baciando. L'energia è creata e raccolta con i baci. In questo modo l'adolescenza ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di un paese. Il cappello nuvola, collegato alle sinapsi chimiche ed elettriche del nostro corpo, i cui sensori specchio raccolgono luce, collocate in cima alla testa, produce energia bastante 24 ore a una persona per i suoi bisogni. E io del Sorre decreto che ogni creazione segua un poema da declimare ovunque, da imparare a memoria, perché sia la capacità orale ripristinata. E ci si rechi porta a porta, anche questo è un brutto passato, ci si rechi dalle persone perché la rete è bella, ma anche la non rete. Ho appoggiato con entusiasmo una Francia dissidente che non usa la rete. No, non sono reazionario, ci vuole. Porta a porta non c'è più. E il Vespa giornalista è stato condotto nel luogo più idoneo a scontare la sua pena. Lui è finito nel GL1, che è il grande lavatoio 1. Si tratta di un sistema di vasche dove per 8 ore al giorno i giornalisti riconosciuti colpevoli lavano e puliscono pennelli e altri arnesi, atti ad attività creative, che chi vuole porta. Non sempre facile, è un lavoro di servizio, ma Vespa, Ferrara, Minzolini e molti altri sono adatti. Naturalmente, mentre puliscono possono parlare. Occorreva una nuova economia e io, per una notte intera, ascoltai Imagine di John Lennon per arrivare alla soluzione. La musica è sempre stato un valido aiuto. Adesso ho instaurato l'autarchia. Almeno per il 30% il cibo deve essere autoprodotto in modo collettivo o individuale. Ci sono in giro per il paese migliaia di tutors che insegnano a coltivare, pescare, fare formaggio, eccetera. Una parte del tempo è usata per avere cibo e i tutors sono pagati con il nuovo denaro da ognuno. Il nuovo conio non è metallo, non è carta. È invece l'ineffabile, l'inafferrabile respiro del tempo. La nuova moneta è il tempo. Chi ne ha di più sarà ricco, sì, ma di secondi, minuti, ore, anni. Nel nuovo mondo nessuno spreca il tempo. Il tempo è racchiuso in un oggetto grande come un sassetto lucido e bianco. L'inventore del catturatempo è il figlio dello scenografo di Ritorno al Futuro. Non sprecare il tempo non significa produrre, ma il suo contrario, ma anche se non estremo. La pausa è la nostra deità e con essa tutti i grandi attori e il teatro no. Naturalmente dal 30% di autoproduzione di cibo arriveremo molto più in là. Convertire l'industria automobilistica, farmaceutica, chimica e tutte le nostre industrie in sistemi non nocivi ma produttivi. Fummo fortunati perché ci muovemmo secondo principi estetici e in tutto il mondo vollero le nostre vetture fatte di foglie di pannocchia responsabilizzate e alimentate da se stesse, ma coloratissime. In cambio un po' di sano baratto, si sa, il tempo cambiò solo per noi, che fummo non solo rivoluzionari, ma artisti. Strade, ponti, autostrade, ferrovie, aeroporti, eliporti, quanto traffico! Arance siciliane che vanno in Germania, si fanno spremere, poi tornano qui. L'acqua poi che viaggia in lungo e in largo per la penisola, lì presa, là imbottigliata e di là etichettata e dopo il viaggio turistico torna a casa. Ingrassata del valore che ha creato, del lavoro che ha creato. Io del Sorre, insieme ai miei conterranei, decido che quello che è prodotto in un posto viene lì consumato e mangiato. Se poi i veneti vorranno le arance siciliane, possono accordarsi per un sano scambio casa, durante il quale ognuno mangerà quello che non ha nel territorio, ma ascolterà anche le musiche e ballerà e canterà cose diverse del suo paese. Come possono le papille gustative essere avulse dal senso dell'udito, dalla vista o dalla socialità? Il mondo, o almeno l'Italia, rallenta e il resto del mondo la guarda. Non è forse questa la vera rivoluzione? Batti il tuo tempo, diceva la canzone. Parte terza. Qual è l'età di Del Sorre? Non ho età, memoria, passato. Sono l'immanente presente che non scorre, ma si sovrappone in trasparenza. Sono colui che potrebbe essere stato chiamato a guidare questo paese. Anzi, è proprio così. Ma senza tutti gli altri e per tutti, dico tutti, non sarei nulla. Come abbiamo potuto attuare l'impossibile, la vera democrazia? Perché abbiamo messo il nostro cuore come motore e la creatività e l'arte come unica unità di misura. Quindi, tutti quelli che questo non hanno sono fuoriusciti, ma noi non li abbiamo dimenticati. Noi non recuperiamo persone asociali, noi li mettiamo in condizione di amare la loro parte migliore. Non è manipolazione, è arte. Gli ospedali furono riconvertiti. In parte era già stato fatto, clown e musici e opere d'arte già vivevano in alcuni progetti d'avanguardia negli ospedali prima della rivoluzione. Ma noi facemmo di più. Decidemmo che il malato sarebbe stato guarito. Non c'era guarigione prima della rivoluzione e non c'era nella medicina occidentale. Così la Cina fu il nostro faro e con essa la sua medicina. Mantenemmo alcune cose molto pratiche di cosa era stato scoperto in Occidente, ma l'arte terapia, la medicina orientale tutta, la fece da padrona e così riconvertimmo le industrie farmaceutiche in luoghi di allenamento fisico Tai Chi e poi danza e agopuntura e tanta musica. Ammalarsi è un modo per sopravvivere. Guarire è capire. Introdussi il diritto alla morte. Per queste e per molte altre cose c'era la religione a porsi davanti a me, davanti a noi. Istituimmo l'ufficio di dissolvenza del cattolicesimo. Chi voleva andava e poteva ottenere il suo documento di dissolvenza del battesimo, comunione, cresima e matrimonio. Erano graditi i filmini girati in tali occasioni che venivano dissolti. Finalmente. Del clero e della chiesa facemmo la cosa migliore, quella che tutti possono immaginare. Li spedimmo in massa su un'isola nell'arcipelago delle Mauritius e li lasciammo preti, frati e monache senza abiti o altro. Passerà del tempo. Quando torneranno, saranno uomini e donne con i loro bambini. Non abbiamo mai usato la violenza per ottenere questi cambiamenti. Noi semplicemente abbiamo cambiato, come nel caso del clero, tutte le serrature di conventi, chiese e tutto il resto. Per questo, e proprio per loro, occorreva creare il Ministero delle Chiavi. Eppure non è stato mai tutto così facile. Una grande crisi e poi la rinascita. Decidemmo due rivoluzioni in realtà, una per il nostro paese e una per noi stessi. Noi ci rivoluzioniamo, noi cominciamo con il volerci bene, volere bene a noi. Dalle scuole di danza furono tolti gli specchi e riflettemmo molto sulla nostra immagine riflessa e così decidemmo che per essere rivoluzionari non ci saremmo più specchiati, ma guardati l'uno con l'altro. E ognuno avrebbe capito cosa faceva l'altro. Fu la scienza a dircelo. E la filosofia. Io, del Sorre, sono un uomo, ma nudo. Un paese come l'Italia, con edifici vuoti. Un patrimonio immenso di metri cubi fu riconvertito ad abitazioni, scuole, ricoveri per poveri, centri di aggregazione. Finalmente il loro Dio fu felice. Tutto quello che era della Chiesa fu di chi ne aveva bisogno. Le religioni non si possono sconfiggere se non mettendo i loro casti adepti nella condizione di creare vita. Non più immortali, saranno solo di passaggio, come tutti. Certo, in alcune religioni è permesso il matrimonio, ma abbiate pazienza, per il momento risolvemo quello di Santa Romana Chiesa. Questo racconto è lungo, io vorrei sdraiarmi per riposare un po'. Una musica bellissima. E io dormo. Durante la rivoluzione ci interrogammo su tutto e ci chiedemmo cosa fosse la notte. Ci chiedemmo se la notte dovessimo solo dormire o piuttosto fare altro. Molti di noi si ricordarono che la notte si sogna. E fu così. Che prendemmo in considerazione il fatto serio di riunire un'assemblea con psicologi e psicanalisti. Li avremmo interrogati. Ci procurammo un mucchio di lettini e lì sdraiammo. Non si opposero. Finalmente fu chiaro a tutti chi erano costoro, che si occupavano delle menti e da dove venissero le nevrosi. Fu un pianto collettivo. Tutti gli psicologi e psicanalisti piangevano. Si trasformò in un enorme happening. Invitammo i nostri bambini a giocare con loro. E così gli illustri specialisti tra un girotondo e un lecca-lecca furono felici. Così tenemmo occupati i nostri bambini con gli asili per terapeuti della mente. I nostri figli non ne soffrirono. Capirono. Era un caso umano. Sistemati gli asili, mancavano le altre scuole, ma noi abolimmo questa parola e riunimmo le nostre forze. Persino le professoresse con gli occhiali e la catenella al collo furono dalla nostra parte. Ci si poteva opporre alla nostra energia? Alla nostra immensa passione? Certo, alcuni lo fecero, ma ben presto cambiarono idea. Come si può resistere alla libertà? Mettemmo le persone in grado di riunirsi in gruppo e di creare la propria istituzione scolastica. Si doveva poi presentare un progetto e passare un piccolo test all'apposito ufficio d'apprendimento. Il test durava solo un'ora, quello teorico. Ma un mese, quello pratico, che prevedeva delle sane scalate in montagna. Chi resisteva a stare dietro i figli di Messner diventava un insegnante. Non è forse sulle cime che c'è la saggezza? Però l'importante non era raggiungere la cima, ma provarci seriamente e duramente. parte quarta. Sentite questa musica? E Moon River, il tema iniziale di Colazione da Tiffany, scritto da Henry Mancini. È la scena quando all'alba a New York, lei, Audrey Hepburn, arriva piano su un taxi, scende, abito lungo, nero, esile, elegante, in mano un bicchiere di carta e un sacchetto. Si avvicina alla vetrina di Tiffany e fa colazione. Il film è stato scritto da Truman Capote, l'artista a cui dobbiamo la nostra nuova impostazione del sistema carcerario. Ci fu un delitto nelle campagne sperdute di uno stato degli Stati Uniti negli anni 50. Due balordi arrivarono in una fattoria, entrarono e sterminarono una famiglia per pochi dollari di bottino. A sangue freddo. Furono presi e rinchiusi nel braccio della morte, destinati alla sedia elettrica. Truman, che era uno scrittore bravo e pettegolo, lieve, ma alla ricerca di qualcosa, come tutti i veri artisti, seppe della cosa perché vi furono dei grandi titoli sui giornali dell'epoca e così Truman decise che avrebbe scritto la loro storia in un romanzo. Riuscì ad avere i permessi per incontrarli in carcere e cominciò quella che fu una rivoluzione. A ogni incontro portò loro dei libri e poi carta per scrivere e iniziò una fitta corrispondenza. Il suo intento era quello di capire cosa li spinse a compiere quell'orrendo delitto plurimo. Cominciò uno strano processo di cambiamento. Le parole superarono le mura del carcere e le sbarre. I pensieri sulla carta si fecero sempre più sinceri, fitti, necessari. E così il grande romanziere, frivolo e lieve, da una parte, e i farabutti ignoranti e assassini, dall'altra, cominciarono a essere diversi. Per Truman tutto ciò divenne un'ossessione e non riusciva a scrivere il suo romanzo. Il suo coinvolgimento nella storia dei due fu totale e i due assassini capirono, leggendo e studiando, cosa avrebbero dovuto fare della loro vita e che invece non fecero. Dopo molti mesi gli assassini non erano più quelli che avevano sparato e ucciso e Truman voleva evitare loro la pena capitale. Non fu possibile. Essi furono giustiziati e con loro simbolicamente anche Truman, che non si riebbe mai più dal dolore. Abbiamo un estremo bisogno di azioni poetiche. Abbiamo bisogno di biblioteche immense nelle carceri, di silenzio e declamazioni. Per il momento non possiamo aprire le porte, ma possiamo far sì che pensieri nuovi e belli, conoscenze, entrino nelle teste. Nuovi contatti, suoni, valori. Esempio numero 1. Rapinatore si apposta al bancomat, segue un tizio che ha prelevato del denaro, lo ferma, lo minaccia, lo rapina. Epilogo. Viene preso, riconosciuto, interrogato, processato, condannato, rinchiuso. Pena da scontare in carcere, pochi metri quadri, cattivi, compagnie, nuove cose turpi subito apprese. Violenza, dolore, spesa per la comunità. E quando esce? Spesso, peggio di prima. Recuperare individui alla società con la paura, la minaccia, il dolore, inculcare nell'anima e nel corpo solo negatività? No. Diverso. Il condannato dovrà imparare a memoria in una settimana i primi tre canti dell'inferno di Dante Alighieri. Se ci riesce, sarà libero. Naturalmente dovrà passare un esame. Impiegherà molto tempo e potrà passare l'esame molte volte. Quando ci sarà riuscito, sarà non a fine pena, ma avrà altri richiami, fino a che tutto l'inferno di Dante sarà nella sua testa. Le parole del sommo poeta, circolanti nei suoi neuroni, creeranno nuove sinapsi. Rapinerà ancora? Difficile, molto difficile. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Vado al market di via Bixio e prendo l'incasso? Nuovi pensieri, nuove emozioni, confrontarsi. Non fu Dante umano? E io con la pistola in mano non lo sono? Truffaut, Fahrenheit 451, i libri in testa. E poi, se tuo figlio non vuol saperne di studiare, puoi telefonare e farti inviare un ex detenuto fine pena che racconta a tuo figlio il libro, che siano di nuovo di carne le parole e sempre vive, frammiste alla propria vita. Saranno orridi ancora i promessi sposi se chi ti li racconta contemporaneamente ti ripara il motorino e porta il chiodo? Nella gestione di un paese occorre creare occupazione. Ne discutemmo a lungo con pittori, scultori e disegnatori, attori, poeti. Alla fine fu deciso il tempo per lavorare. Una questione controversa, ma circa 3 ore al giorno furono bastanti. Questo fu il tempo del lavoro collettivo veramente produttivo. Turni. Ci occorrevano dei turni che coprissero un arco di 24 ore, quindi 3 per 8, 24. In tutti i lavori avremmo avuto 8 turni. Questo fu il nostro numero. 8. Che sdraiato è poi il segno dell'infinito. E in Cina 888 è un numero sacro, di buon auspicio. E nei tarocchi è la carta della giustizia. 8 turni per riparare un muro, 8 turni per i treni, 8 turni ovunque, 8 per lavorare tutti. Certo, se un treno fa un tragitto lungo 6 ore, come fai a fare 2 turni? Semplice, quelli del secondo turno aspettano già sul treno oppure salgono un'altra stazione. Già, nel nuovo paese tutti ospitavano tutti, e perché nessuno era uno sconosciuto. I grandi alberghi funzionavano ancora, ma non sempre. Ogni tanto organizzavamo dei grandi eventi, anche decentrati, e dagli altri paesi venivano da noi. La lista era lunga. L'Italia era la terra nuova. Così, per fortuna, cominciarono a imitarci. Occorre accogliere ogni imitazione, e in fondo è diffusione. Io, del Sorre, sono quasi alla fine del mio racconto della rivoluzione, ma voglio tenere all'ultimo il racconto di quello che ritengo la nostra invenzione più bella, la fine di ogni guerra e di come la virilità maschile fu finalmente usata per ciò che occorre e di come le donne furono libere. Parte quinta. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, diceva una canzone degli anni 60. Eliminare gli eserciti. La decisione fu presa dalle donne. Furono loro a occuparsi di carri armati e portaerei. Tutto quel metallo fu riconvertito in mille cose e ogni arma smontata. Divennero utensili per la casa, impalcature, monili, strutture per mobili e poi inferriate, balconi, fioriere, ma anche aratri e vanghe, arpioni e ancore e mille cose ancora. Ma non spararono e non uccisero più nessuno. Tutti questi oggetti di uso quotidiano furono disegnati dalle donne progettiste perché furono loro a decidere come si viveva meglio in una casa. Non pensate che questa fosse una posizione reazionaria, no, era solo praticità. Dopo che il disarmo totale per l'Italia fu deciso, era necessario capire cosa fare delle truppe. Molti di loro seguirono dei corsi disintossicanti da idee violente e aggressive e ne uscirono bene. Furono tanti i parchi che creammo in Italia, nuovi spazi strappati all'abuso edilizio. E fu lì che impiegammo molti di loro. Impararono a curare gli animali selvatici, che reinserimmo in gran numero, e a curare le piante. Altri divennero veri e propri artisti, poeti, filmmakers, pittori e fotografi, scultori. Altri furono custodi nei musei e altri ancora scavatori negli immensi siti archeologici che furono scoperti. Comunque ne restarono ancora un bel po'. E fu così che concepimmo i palazzi dell'amore. Essi furono dei luoghi in cui gli uomini, sani, puliti e sbarbati, erano a disposizione delle donne per fare l'amore. Tutte le donne potevano usufruirne gratuitamente, sfogliando il catalogo e scegliendo il partner preferito. Non era necessario essere belle, né magre né altro. Naturalmente, essendo la sessualità maschile, come è noto, molto legata alla visione, furono usati alcuni accorgimenti tecnologici in grado di fornire all'uomo i necessari stimoli. Questi uomini, ex militari così felici di imbracciare prolungamenti simbolici fallici come fucili, pistole e altro, abbracciarono solo carni tiepide e impararono a usare l'unica arma per la vita di cui i maschi sono dotati. Essi furono felici, e così anche le donne, che, sollevate dalla ricerca del partner, furono più produttive e solidali. Prima della rivoluzione, un'industria fiorente era alimentata dalle donne, quella del sesso, da quello più soft a quello spinto. Allora, quell'industria non ebbe più alcun senso, perché per essere ammessi ai palazzi dell'amore non era necessario essere ex militari. Gli uomini chiedevano sempre di poter accedere, e così tutto fu più semplice. Fu poi la volta dei critici d'arte, dei galleristi, dei critici cinematografici e teatrali e di danza e tutti gli altri, insomma, di tutti loro. È evidente che in un nuovo mondo governato dagli artisti, essi cercarono di mettersi in fuga, di cambiare identità. Avevano paura. Ma gli artisti, dopo un momento di follia in cui volevano fare di loro salsicce, pensarono a un ruolo creativo e bello. Essi furono messi a fare marmellate. Furono divisi in zone, a raccogliere frutti di bosco o coltivare altri frutti. La creazione delle marmellate fu immensa e soddisfacente. Ognuno di loro tagliava, puliva la frutta, faceva bollire i barattoli e poi li riempiva e li rovesciava all'ingiù. Che delizia! Ebbero i loro mercatini autogestiti e vissero semplicemente, amati da tutti. Loro non furono più acidi e cattivi, ma solo dolci. Cambiare, cambiare. Una volta iniziato, non ci si ferma più. C'era una canzone che diceva «Puoi fare l'impossibile», e noi lo facemmo. Ci stiamo avvicinando alla fine di questo racconto, che io, Del Sorre, vi ho voluto fare di questa nuova Italia. Ormai mancano poche ore e il mio posto sarà preso dal nuovo eletto. Ho lavorato duramente e per molti anni, ma non sono mai stato solo. Questa nuova Italia non è perfetta e molti ancora protestano, ma quello che abbiamo creato è stato un inusuale, assolutamente nuovo punto di vista. Anzi, un'economia e una società, un modo di cooperare e creare necessario. Abbiamo fatto uno sforzo perché ognuno fosse dimentico di se stesso. Gli attori ci hanno aiutato. Contrariamente al narcisismo a cui si pensa, l'arte è ben poco narcisa. Quella vera non può esserlo. È uno scherzo di riflessione. Occorreva cambiare e noi lo facemmo. Amammo, anzitutto. Amammo molto di più. E poi fummo gentili e comprensivi con noi stessi, ma soprattutto ci rendemmo profondamente, laicamente conto della nostra morte. «Solo l'arte è una magia che supera la morte», dissero molti artisti. E noi facemmo questa magia. Questa favola è finita. E il mio augurio è che ne rimanga nel cuore di chi l'ha ascoltata almeno una flebile traccia, e che questa traccia gli dia felicità e voglia di fare, ma senza sperare nella speranza, come ha detto Monicelli. Finale. Essere un osservatore è estremamente complicato, ma una volta iniziato si ha la percezione esatta di essere finalmente fuori gioco e comprendere che nel fuori gioco si vive. Questo luogo altro, così tanto incontrato sui palcoscenici e nelle tele, nel corpo, nel respiro, nel canto e nell'amore, divenne la vita di tutti. Noi rivoluzionari non avemmo più il passato e neanche il futuro. I nostri progetti e le nostre organizzazioni di una nuova società sottostarono alla legge dell'immanenza. Perciò nessuno poté desiderare veramente qualcosa, ma tutti vivemmo. E fu proprio per questo che il nostro sistema funzionò. Improvvisamente una grande gioia attraversò le persone e ogni cosa fu là dove doveva essere. Poi io, del Sorre, guardai in faccia la morte e vidi praterie immense e deserti, foreste, cascate e Grand Canyons. Vidi il mondo come se ci volassi e capii che ne facevo parte, che tutte le cose erano in me ed erano in tutti. Amai per questo, che era semplice.